Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il dato definitivo delle europee: PD al 40,8%, 5 Stelle quasi doppiati. Il partito di Renzi sfonda anche al nord e nel nord-est. NCD e lista Tsipras superano la soglia di sbarramento. Tra poco inizia lo spoglio per le amministrative. E parla il Presidente del Consiglio: Italia più forte delle paure, ha vinto la speranza, non era un referendum sul governo, Italia pronta a contare di più in Europa. Il quadro dei seggi all'Europarlamento consegna un rafforzamento degli euroscettici, si fa strada l'ipotesi di una grande coalizione anche a Bruxelles. L'ex ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Nei suoi confronti di un imprenditore sono stati disposti domiciliari, il reato ipotizzato è peculato. Arrestato un pediatra a Milano, accusato di violenza sessuale su un bambino di 12 anni, avrebbe abusato anche di altri pazienti, era già stato condannato per detenzione di materiale pedopornografico nel 2000. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete scriverci, effettogiorno@radio24.it, poi c'è la nostra pagina Facebook, c'è l'account Twitter, il mio, Simone Spezia, mi trovate. Oppure gli sms come sempre 349-238-6666. Iniziamo naturalmente dalle elezioni europee, come si diceva e come sentivate già nei titoli. Tra poco inizierà lo spoglio per le amministrative alle 14 e anche da là avremo un quadro importante della situazione politica. Nel frattempo i dati appunto ci consegnano un Partito Democratico al 40,8% e un Movimento 5 Stelle che va appena sopra il 21%. Questa mattina la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi da Palazzo Chigi. Il punto dunque su questa conferenza stampa, che vi abbiamo anche fatto sentire in diretta poco fa, con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori. Lunga conferenza stampa dunque del Presidente del Consiglio Renzi. Toni pacati, non trionfalistici quelli del Premier. Ringrazio tutti gli italiani e italiane che hanno dimostrato con una partecipazione significativa che questo Paese è migliore di come lo si rappresenti. E ancora Renzi, c'è l'Italia profonda che non si rassegna. Noi non abbiamo esigenze di fare festa, ha detto ancora il Premier, ma avvertiamo lo straordinario compito di fare le riforme. Ascoltiamo allora un primo passaggio del Presidente del Consiglio. Io non considero questo risultato la legittimazione personale. È un risultato che dice che l'Italia si può cambiare. Ecco, dire agli italiani che non hanno votato che faremo di tutto per convincerli a tornare alle urne, dire agli italiani che hanno votato per la speranza e contro la rabbia che il loro messaggio è arrivato forte e chiaro e che per questo un po' di soddisfazione e di commozione ce la teniamo. Ma al lavoro da oggi, da subito, senza perdere un minuto. Il risultato è tecnicamente straordinario, extra ordinem, l'idea che un partito ottenga più del 40% in Italia. Al lavoro da subito, senza perdere un minuto dunque, le parole del Premier Renzi. Ma da dove ripartire? Cosa cambia dopo il voto di ieri? Non cambia granché, insomma, fa capire il Presidente del Consiglio. A partire dal cammino delle riforme, il risultato non muta le valutazioni sulla legge elettorale, spiega: il ballottaggio è centrale per garantire la vittoria. Se ci fosse il proporzionale puro, neanche il PD al 40% non potrebbe governare. Queste le parole del Premier. Ascoltiamo allora ancora Renzi proprio sulle riforme. Io continuo a ridire in tutte le sedi e in tutte le salse che le riforme fondamentali perché l'Italia torni ad essere il punto di riferimento sono la riforma istituzionale e costituzionale, la riforma della legge elettorale perché ci sia la certezza di uno che vince, non per andare a votare, la riforma del mondo del lavoro. E questo è il cammino delle riforme. Infine il rapporto con le altre forze politiche, il rapporto anche con l'Europa. Forza Italia continua a essere un partito importante, un pezzo importante di questo Paese, ed ancora mi auguro che nei 5 Stelle ci sia una riflessione sulla legge elettorale. Infine Renzi e l'Europa: l'Italia chiederà a Bruxelles che si occupi di salvare le famiglie e le persone, non chiediamo regole di bilancio più aderenti alle nostre aspettative, ma di cambiare l'impostazione. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e adesso ci spostiamo dal lato del Movimento 5 Stelle, il secondo partito. Andiamo a Milano perché è proprio a Milano che si trova in questo momento Beppe Grillo, davanti alla sede, nella sede di Casaleggio e Associati, davanti alla quale c'è Stefano Totoro. Stefano, buongiorno. Buongiorno a te Simone, agli ascoltatori. Grillo è arrivato qui nella sede della Casaleggio Associati intorno alle 10.30, al momento nulla trapela della riunione in corso fra il leader del Movimento 5 Stelle e i suoi collaboratori, si sa solo che con tutta probabilità Grillo pubblicherà un video sul suo blog presumibilmente intorno alle 15, ma al momento non ci sono conferme. Il leader dei 5 Stelle questa mattina proprio sul suo blog ha ringraziato i suoi elettori e uscendo da casa sua a Genova ha mimato il gesto della pugnalata al cuore davanti ai cronisti che lo aspettavano. Di certo, come si dice ormai da diverse ore, questo risultato dei 5 Stelle non era assolutamente atteso. Aspettiamo di capire quali saranno le prossime mosse di Grillo e dei suoi. Naturalmente da qui, se dovessero esserci ulteriori aggiornamenti, vi richiedo la linea. Per il momento è tutto. Grazie dunque al nostro Stefano Totoro. Su questo, naturalmente, su come è andato il Movimento 5 Stelle, torneremo più avanti, ne parleremo con l'autore di un libro, meglio il curatore di un libro proprio sul Movimento 5 Stelle, e con il senatore dissidente Luis Orellana. Abbiamo anche cercato un deputato del Movimento 5 Stelle, ci hanno detto che finché non esce il video di Grillo sostanzialmente non parlano. Ora con Andrea Viali per fare il punto su tutti gli altri. Andrea, eccoci, buongiorno. Eccoci Simone, buongiorno. Allora, lo sapranno i nostri ascoltatori, alle spalle del Partito Democratico e dei 5 Stelle c'è Forza Italia. Forza Italia che perde consensi, si attesta al 16,8% e ottiene 13 seggi al Parlamento europeo, un calo che diciamo poteva essere anche forse in qualche modo previsto dopo la fine della coalizione di centrodestra, cioè la rottura con Alfano e con Fratelli d'Italia, e anche dopo diciamo le vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi che stamattina per ora tace, a parlare è invece il suo consigliere politico Giovanni Toti, secondo il quale appunto a pesare è stata la condanna inflitta all'ex cavaliere, una condanna che per Toti ha privato i moderati italiani del loro storico punto di riferimento. Chi festeggia, chi brinda è invece la Lega Nord che ottiene il 6,2%, 5 seggi, il Carroccio ora è la quarta forza politica italiana e sembra in qualche modo aver superato quella che possiamo chiamare l'era Bossi, lo scandalo Belsito, e chiaramente molto soddisfatto l'attuale segretario federale Matteo Salvini. Sentiamo cosa ha detto stamattina a Radio 24. 1.700.000 matti hanno votato Lega, in 300.000 addirittura hanno scritto Salvini, però per me è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Vediamo di meritarcela sta fiducia, va? Finalmente ci sarà un'opposizione a Bruxelles, perché lì i democristiani socialisti che litigano in televisione poi alla fine il 90% delle cose se le votano assieme. E l'euro, io so che sono sulla radio di Confindustria, quindi come bestemmiare in chiesa, però l'euro è finito. L'euro è palesemente finito. Addirittura quindi, è finito. Gli do qualche mese di vita. Ecco, così Salvini, ecco, non sfonda invece il nuovo centrodestra, anche se la formazione guidata da Angelino Alfano riesce comunque a superare lo sbarramento, ottiene il 4,4% e 3 seggi, con poco più del 4% supera di un soffio lo sbarramento anche Tsipras, e anche la lista che fa riferimento a Nichi Vendola ottiene 3 seggi. Non superano invece il quorum Fratelli d'Italia, che si fermano al 3,6%, i Verdi allo 0,89% e poi Scelta Civica, Scelta Europea, che nonostante la presenza al governo scivola a percentuali, come si dice in questi casi, da prefisso telefonico, cioè allo 0,71%, possiamo definirlo un vero e proprio tracollo. Simone, un dato simile c'è anche per l'Italia dei Valori, che non va oltre lo 0,6%. Per ora è tutto. Grazie al nostro Andrea Viali. Prima di andare alle reazioni istituzionali in Europa e a farci un'idea sulla composizione del nuovo Europarlamento, però facciamo un punto sui mercati, perché le cose in Italia vanno particolarmente bene stamattina. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Più 2,72% in questo momento sul FTSE MIB, sono positive anche le altre piazze europee, ma a netta distanza rispetto a Milano per Francoforte, che peraltro stamattina ha toccato il suo nuovo record storico, rialzo dello 0,9%, più prudente Parigi che segna più 0,34%, Londra è chiusa per festività così come oggi lo è anche Wall Street. Un mercato molto galvanizzato dal risultato elettorale, soprattutto con il settore bancario a spiccare letteralmente il volo, i migliori titoli, quelli delle popolari che avevano avevano perso terreno nelle ultime settimane. Popolare dell'Emilia Romagna più 7, Popolare di Milano che ha concluso l'aumento di capitale venerdì scorso più 6%, ma vanno bene anche i titoli industriali, Telecom più 5,36, UbiBanca cancella le preoccupazioni legate all'inchiesta giudiziaria in corso che la riguarda, il titolo in rialzo del 5%. Il segnale di stabilità arrivato dalle elezioni europee, commentano gli operatori finanziari, sul mercato premia le banche ma anche l'intero tessuto economico industriale perché consente al governo, dicono molti gestori, di pianificare più a lungo respiro e aumenta la probabilità che le riforme annunciate vengano effettivamente realizzate. Spread fra BTP e Bund a 166 punti base. Simone, è tutto. E grazie anche alla nostra Deborah Rosciani, il nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Allora, che cosa ci possiamo aspettare dal punto di vista della composizione dell'Europarlamento? Allora, partiamo dagli ultimi dati, dalle ultime cifre rese note dal Parlamento europeo che danno al Partito Popolare Europeo 214 seggi e un 28,5% in calo del 7% rispetto al 2009. Il Partito Popolare Europeo ha vinto, ma per paradosso è lo schieramento, la coalizione che ha registrato il calo maggiore negli ultimi 5 anni. I socialdemocratici, di cui fa parte il PD, 189 seggi, 25%, un calo di pochi decimali, liberali a 66 seggi in calo, Verdi 52, leggera risalita, e poi la sinistra 42 seggi più 1,5%, e poi c'è tutta un'area euroscettica che potremmo calcolare tra i 150 e i 170 seggi. In questo momento mi trovo nella sede del Partito Popolare Europeo, dove circa un'ora e mezza fa ha parlato Jean-Claude Juncker, cioè il candidato uscito vincitore dalle consultazioni. Juncker ha detto: abbiamo vinto, chiederò il mandato per formare una nuova commissione, la nuova Commissione Europea, e discuterò col Partito Socialista Europeo. Non vedo una maggioranza all'interno del Parlamento Europeo al di fuori dello schieramento popolari socialisti, dice Juncker, che non vuole, anzi il Presidente ha detto di rifiutare i voti dell'estrema destra e degli euroscettici. Juncker ha anche ripetuto le sue priorità: il consolidamento dei budget nazionali, un miglioramento del mercato unico per creare oltre 260 miliardi di euro di valore aggiunto per l'economia europea e maggiore insistenza su crescita e occupazione. Abbiamo chiesto come Radio 24 a Juncker un commento sulla vittoria di Matteo Renzi. Matteo Renzi sarà il prossimo presidente di turno dell'Unione Europea nel semestre, o meglio l'Italia sarà la prossima paese presidente di turno. L'Italia chiede più crescita, più occupazione, meno austerità. Abbiamo chiesto a Juncker se questo non potrebbe portare a uno scontro tra una sua eventuale commissione e il governo italiano. Sentiamo cosa ci ha detto. We have on the one hand the need. Dice Juncker: abbiamo da un lato il bisogno di consolidare le nostre politiche di bilancio, dall'altro quello di sviluppare politiche per la crescita e l'occupazione. Non c'è contraddizione, ma al massimo rispetto per Matteo Renzi. Lui ha già reso chiaro che rispetterà gli impegni presi dall'Italia con l'Europa. Non vedo problemi. Se un governo vuole cambiare le regole in Europa, dovremo avere un cambio di trattato, il che richiede unanimità. Conclude Juncker: non sono ancora presidente della Commissione Europea, se lo diventerò discuterò di tutto questo con la prossima presidenza italiana. E per chiudere, uno sguardo a cosa ci attende domani: conferenza dei capigruppo uscenti del Parlamento Europeo. Da lì dovrebbe di fatto uscire un'indicazione chiara proprio a favore di Juncker. I socialisti nei fatti hanno dato carta bianca, ma sotto starebbero ancora cercando di formare una possibile maggioranza alternativa all'Europarlamento. Ma il vero appuntamento è domani sera con i 28 leader europei che cominceranno materialmente le discussioni per indicare il prossimo presidente della Commissione Europea. E se dobbiamo essere sinceri, la nomina di Juncker non è così scontata da Bruxelles. È tutto. Grazie a Sergio Nava. Giornate dunque cruciali per l'Europa, e anche di questo che andiamo a parlare ora. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno. Allora, come si è già commentato prima nello speciale col professor Giovanni Orsina, la conferenza stampa di Renzi oggi è stata chiaramente la conferenza stampa di un vincitore. L'occhio adesso è tutto su Bruxelles, oggettivamente. Sì, su Bruxelles, insomma, lì si vedrà, perché non c'è dubbio che il Partito Popolare è il gruppo più grosso, però è all'interno di un'Europa a macchia di leopardo, un'Europa in cui esistono queste forze eterogenee, forze nazionaliste, E poi abbiamo il Partito Socialista Europeo, in cui gli italiani, il Partito Democratico Italiano è diventato una forza imponente, è una forza insomma, che è in grado di determinare e influenzare le politiche a livello europeo di questo che è il secondo raggruppamento. Tutto questo può determinare, l'avete ben detto nel servizio, può determinare anche degli screzi, e qualche cosa che, su cui dovremo studiare, perché non bisogna far passare l'idea che adesso siamo alla vigilia di un grande mutamento delle politiche europee. Non è così, l'ha detto Juncker in maniera abbastanza chiara, occorre fare una modifica dei trattati. E come si fanno i trattati? Come si fa a modificare i trattati? Sono i governi che decidono ancora, e sono i governi che dovranno quindi andare a complesse trattative, ammesso che ne abbiano voglia. Insomma, io credo che sul piano europeo la posizione italiana sarà sì innovativa, ma spero che non sia velleitaria. Ecco, spero che Renzi mantenga quel livello di concretezza che lo ha caratterizzato e che ha dimostrato ancora oggi nella conferenza stampa. Senti Stefano, proprio a proposito di questo ti vorrei portare per un attimo invece sul fronte italiano, che è naturalmente è l'altro fronte, no? Ieri circolava questa battuta su Twitter, dice insomma Renzi è arrivato a Palazzo Chigi senza passare per le urne, ma le urne non sembrano essersene accorte, che non è male. Sì, certo. No, adesso Renzi ha una grande sfida davanti a sé, perché fa bene ad allontanare da sé il sospetto di volere elezioni anticipate, che sarebbe un errore storico a cui sono sicuro si sottrarrà. La capacità di governare sarà su due livelli: uno è l'azione di governo in quanto tale, che dovrà affrontare problemi molto profondi. Alla fine dell'anno ci aspetta una legge di stabilità che si prevede molto impegnativa, e questo richiede una grande capacità di leadership e di gestione della sua maggioranza. E poi c'è il livello delle riforme, naturalmente, che è decisivo, che rimane cruciale per il successo complessivo dell'azione dell'esecutivo, e questo però richiede quel famoso patto anche con l'opposizione, con il centrodestra berlusconiano, considerando che Grillo al momento almeno non mi pare che sia in condizione di partecipare a questo processo riformatore, ma il centrodestra di berlusconiano, che è nel pieno di un profondo, siamo alle premesse di un profondo lavoro di ricostruzione e di ristrutturazione, e bisogna vedere se parteciperà a questo processo riformatore, se continuerà a partecipare, che vuol dire anche affrontare la questione della legge elettorale, che probabilmente non potrà più essere l'Italicum così come era stato concepito in un primo tempo, ma indubbiamente Renzi ha bisogno di un partner per le riforme, e questo partner in questo momento è all'anno zero, diciamo, della sua ricostruzione politica. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È una notizia appena battuta dalle agenzie e va presa con il beneficio del dubbio. Il gesuita italiano Paolo Dall'Oglio sarebbe stato ucciso subito dopo la cattura da parte di miliziani qaedisti nel nord della Siria. Questo è quello che afferma un disertore dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, citato da un ONG, la Lega Siriana per i Diritti Umani. Ribadiamo, per ora mancano elementi di prova. Questa è la notizia che sta circolando in queste ore. Già in un'altra occasione si era detto che padre Dall'Oglio era stato ucciso. Vedremo se ci saranno aggiornamenti su questo. Le altre notizie, le elezioni europee delle quali abbiamo parlato finora, con il PD al 40,8%, 5 Stelle quasi doppiati, e Renzi che dice l'Italia è più forte delle paure, ha vinto la speranza, non era un referendum sul governo. Il quadro dei seggi all'Europarlamento si sta componendo. L'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini, ci arriveremo tra un attimo, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Nei suoi confronti di un imprenditore sono stati disposti domiciliari. Il reato ipotizzato è peculato. È stato arrestato un pediatra a Milano, è accusato di violenza sessuale su un bambino di 12 anni. Avrebbe abusato anche di altri pazienti. Era stato già condannato per detenzione di materiale pedopornografico. Abbiamo parlato molto naturalmente delle elezioni europee, ma ci sono state anche altre votazioni, non solo le amministrative, il cui spoglio, lo ricordiamo, inizierà alle 14, ma ci sono state le elezioni in Ucraina nel fine settimana ed è in corso invece il voto in Egitto. Ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore al Cairo, Ugo Tramballi. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Qual è il quadro e quali sono le attese? Il quadro è scontato, sembra di essere tornati ad assistere alle elezioni dei tempi di Mubarak, la situazione è assolutamente sotto controllo, il risultato già fissato, praticamente vincerà, sarà un plebiscito per il generale Al-Sisi, l'ex generale Al-Sisi, è un uomo forte, è un uomo delle forze armate, le forze armate torneranno a governare come già stanno facendo in via provvisoria il paese. E questo è il risultato, piaccia o non piaccia, non tanto della democrazia, del fallimento della democrazia, degli scandali di democrazia che si sono intravisti in Piazza Vera in questi tre anni, ma il risultato è della instabilità che ne è sortita. Agli egiziani interessa poco di affermare un concetto di democrazia simile al nostro, interessa invece a vivere nella stabilità e nell'ordine sociale, primo e secondo. Il punto essenziale di questo governo arrivare a cercare di ricostruire l'economia e questo sarà un obiettivo estremamente complicato. Ti ringrazio Ugo Tramballi, tra l'altro stiamo un po' perdendo la linea e quindi ti saluto e saluto un'altra inviata del Sole 24 Ore, Antonella Scott, buongiorno, inviata in Ucraina. Buongiorno. Ciao Antonella. Allora vorrei capire da te qual è il quadro dopo il voto di ieri, insomma anche da te sostanzialmente la stessa domanda, posto che vediamo che a Donetsk ci sono violenze ancora adesso. Sì. Sì, le notizie da Donetsk sono davvero preoccupanti perché mentre ieri sera i separatisti avevano annunciato di introdurre la legge marziale, così hanno detto, questa mattina hanno occupato l'aeroporto, nelle prime ore della mattina hanno occupato l'aeroporto e in questo momento i giornalisti che si trovavano all'interno dell'aeroporto riferiscono di pesanti esplosioni, spari e una situazione molto confusa ancora, però sembra che i governativi abbiano dato inizio a un'operazione per liberare l'aeroporto, girano fotografie di caccia e di elicotteri che volano sull'aeroporto, quindi questo sicuramente è l'avvenimento più grave di oggi che mette già subito, fa capire la portata della sfida del nuovo presidente Poroshenko, di cui dovrebbero arrivare entro poche ore i risultati definitivi. Comunque insomma ha superato abbastanza sorpresa al primo turno ieri e stamattina parla di un dialogo con il Donbass per quanto riguarda gli abitanti, i problemi delle regioni orientali, ma non certo con i separatisti con cui ha annunciato una linea dura, e questo è davvero subito messo alla prova, la sua prima sfida è questa. Allora grazie Antonella, e anche con te torneremo ad aggiornarci. Noi adesso però ritorniamo alle elezioni europee con la nostra Laura Bettini, che ci dà un quadro di quello che è successo e degli aspetti più interessanti di quello che è successo negli altri paesi. Nous allons marcher maintenant de victoire en victoire jusqu'à l'élection présidentielle. Di vittoria in vittoria marciamo verso le presidenziali, dice serio l'anziano fondatore del Front National, Jean-Marie Le Pen. Attorno a lui si brinda champagne. Il momento è storico, sottolinea l'artefice del successo, Marine Le Pen. L'estrema destra francese è oggi il primo partito del paese con il 26% dei consensi. Alle sue spalle l'UMP e molto dietro i socialisti del presidente Hollande. C'è poco da ridere anche a Downing Street. I conservatori di Cameron vengono sorpassati dai laburisti e dagli indipendentisti euroscettici dell'UKIP, che con il 27% dei consensi sono il primo partito del paese. Da 100 anni a questa parte nessuno aveva fatto mangiare la polvere a Tories e Labour. Polvere che ora Nigel Farage promette di far mangiare anche a Bruxelles. Tiene in Germania la cancelliera Merkel al 36% con 10 punti di vantaggio sull'SPD, ma gli euroscettici dell'AfD raggiungono il 7% e poiché non c'è soglia di sbarramento, la Germania manderà in Europa anche un deputato neonazista. Restando in tema, in Olanda ex aequo tra i democratici e la formazione xenofoba di Geert Wilders. In Austria il centrodestra vince, ma l'estrema destra supera il 19%. Stessa area politica per il Danish People Party, primo partito col 26% a dispetto della maggioranza di governo socialdemocratica. L'Ungheria conferma invece i conservatori di Fidesz, ma rincara la dose degli estremisti di destra di Jobbik al 15%. L'Europa del Sud invece contesta passando a sinistra. Alexis Tsipras, leader di Siriza, sinistra radicale greca, batte infatti il governo del centrodestra e socialisti col 26,5% delle preferenze. e il premier Samaras lo riceverà o dovrà trattare con l'altra forza in ascesa, i neonazisti di Alba Dorata. A Madrid si sta invece come a Londra. Socialisti e popolari insieme non fanno il 50%. L'estrema sinistra di Izquierda Unida sale al 10%, ma l'astro nascente qui è il professor Pablo Iglesias. Nacimos para cambiar nuestro país, nacimos para ganar y a partir de mañana trabajaremos. Capelloni, pizzetto, bracciali, vestiti larghi, guida Podemos, il partito nato dal movimento degli indignati, che porta a casa l'8%. Vuole unirsi con altri compagni del sud dell'Europa per battere la casta e riformare il sistema. E il primo passo potrà farlo nel vicino Portogallo, che, indignato dalla medicina dell'austerità, ha sonoramente bocciato il governo di Coelho. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E quindi in due paesi i partiti di governo reggono, la Germania, come avete sentito, con Angela Merkel, e l'Italia con Matteo Renzi e il Partito Democratico. Claudio Cerasa, giornalista del Foglio, autore delle Catene della Sinistra, non solo Renzi, lobby, interessi, azioni occulti di un potere immobile. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Beh, le catene un po' sono spezzate oggi. La domanda che ti volevo fare è esattamente questo. Nel libro parli di una serie di vincoli che, a tuo giudizio naturalmente, vincoli ai quali si è legato il centrosinistra in questi anni. Una parte di questi vincoli risiedono nella magistratura, un'altra parte nel sindacato. Secondo te il dato di oggi è la dimostrazione che queste catene sono state spezzate? Ah, il dato di oggi secondo me è la dimostrazione che un Presidente del Consiglio che guida anche il Partito Democratico, che imposta tutta la sua campagna elettorale sull'uomo solo al comando, che è una squadra intelligente, interessante, ma è l'uomo solo al comando che guida un partito e un governo, può funzionare, e può funzionare anche nella misura in cui non è mai successo che in campagna elettorale un segretario del Partito Democratico prendesse a male parole i sindacati, che prendesse a male parole anche l'ANM, che cercasse di differenziarsi un po' dai parrucconi, dal Partito della Cultura, al mondo del Teatro Valle, diciamo così. E Renzi sta cercando di spezzare tutte quelle catene, ed è per questo che per la prima volta nella storia il Partito Democratico arriva a questi livelli. Ma non ricordiamoci che un anno fa era il 25% il PD, è una cosa incredibile. Altro elemento, e poi ne parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno con Massimo Cacciari, è il segnale che arriva dal nord, dove tradizionalmente il PD è meno forte, il centrosinistra è meno forte, e questa volta arriva intorno a un 37,5%, mi pare, in Veneto, e siamo al 40% in Lombardia. Sì, è un risultato pazzesco, e per una ragione secondo me è avvenuto tutto questo perché il PD per la prima volta non si è mostrato ostile nei confronti degli elettori moderati, anche diciamo così berlusconiani. Secondo me nel momento in cui Renzi a gennaio ha aperto le porte del Partito Democratico a Berlusconi con il patto del Nazareno, non ha aperto le porte soltanto al leader del centrodestra, ma ha aperto le porte agli elettori del centrodestra che si sono ritrovati oggi, secondo me in molti, specie al nord, nella proposta di Renzi. E se il Forza Italia ha perso molti voti al nord è perché sono andati, sono un travaso evidente nel Partito Democratico. Grazie a Claudio Cerasa, caporedattore del Foglio, autore della Catene della Sinistra, edito da Rizzoli. Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Dato definitivo alle europee, PD al 40,8%, 5 Stelle quasi doppiate, il partito di Renzi sfonda anche al nord e al nord-est, ne parleremo tra poco. Il quadro dei seggi all'Europarlamento, si rafforzano gli euroscettici e si fa strada l'ipotesi di una grande coalizione anche a Bruxelles. Ha parlato pochi istanti fa Angela Merkel, dice Juncker è il nostro candidato, e cioè quello del PPE, ma nessuno dei due partiti può da solo decidere il presidente, quindi servirà un confronto. L'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini è stato arrestato dalla Guardia di Finanza ai domiciliari. Il reato ipotizzato è peculato. È stato arrestato un pediatra a Milano accusato di violenza sessuale su un bambino di 12 anni. La borsa. Borse in diretta. Borsa sulla quale in parte vi abbiamo già aggiornati. Le cose in Italia oggi vanno particolarmente bene. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Un più 2,63% sul FTSE All Share, un più 2,78% sul FTSE MIB. Insomma, anche un po' di recupero dopo la paura pre-europee. Sì, c'è un po' di recupero dopo la paura di una forte affermazione da parte dei partiti euroscettici in Italia del Movimento 5 Stelle. La borsa oggi è quindi sostenuta da un esito elettorale che rafforza il governo e punta alla stabilità politica. Tra l'altro il ridimensionamento delle forze euroscettiche attira l'attenzione anche in Italia degli investitori internazionali che appunto avevano venduto nelle ultime settimane. E grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore e a Isabella Tasso, oggi un po' più compatti, del resto vi abbiamo aggiornato non più tardi di un quarto d'ora fa. Isabella, buona giornata. Buona grazie. Giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Roberto Dalimonte, professore di sistema politico italiano all'Università Luis Guido Carli di Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno professore. Allora, una sua prima valutazione sui risultati che abbiamo visto oggi. Non posso che ripetere quello che ormai tutti i commentatori stanno dicendo da un po'. È un risultato straordinario, assolutamente, da tutti i punti di vista. Assolutamente straordinario e inatteso. Queste non erano elezioni favorevoli per un partito di governo, come si è visto nel resto d'Europa, erano più favorevoli per partiti di opposizione di stampo populista, e l'Italia si è rivelata l'eccezione europea, la grande eccezione europea, l'Italia e il PD e Renzi. Allora, questo un suo primo commento. Come al solito agli ascoltatori che scrivono, così lo ripeto, così come abbiamo fatto nel corso dello speciale, prima della conferenza stampa di Renzi, è vero che c'è stata una grossa astensione, ma se vale per il 40% del PD, lo dico al netto di qualsiasi valutazione, vale anche per tutti gli altri, cioè non vale solamente per il PD, vale anche per tutti gli altri. E saluto anche Massimo Cacciari, buongiorno. Buongiorno. Impressionante il dato del Nord, un 37,5% in Veneto, un 40% in Lombardia, e questo Nord alla fine se l'è preso Renzi. Sì, perché qui in queste regioni la crisi del centrodestra e della Lega, anche se la Lega insomma è sopravvissuta, ecco, perché si poteva temere anche di scomparire. Questa crisi è ancora più radicale che altrove. C'è stato quindi uno spostamento massiccio di elettorato di destra, di centrodestra e leghista su Renzi. Qui si vuole governabilità, si vuole affidabilità, si vuole credibilità, e Lega e Berlusconi l'hanno ormai ridotto al lumicino. Questo è il risultato, però guai ad ubriacature, perché il voto in Italia è tutto mobile, liquido, gassoso, e il voto preso in queste regioni, ripeto, per il 50% il successo di Renzi è dovuto a spostamenti di voto che tutto sono fuorché di sinistra, non è che il popolo delle partite IVA si sia svegliato la mattina di centro-sinistra, continua a essere esattamente quello di prima, soltanto che i suoi punti di riferimento sono completamente smottati. Professor Dalimonte, condivide? Sì, condivido, aggiungo soltanto che in realtà c'è stato uno spostamento in Veneto, ma anche in Lombardia, da Grillo a Renzi, oltre che dalla Lega e da Forza Italia. Nelle ultime elezioni politiche il primo partito in Veneto è stato il movimento di Grillo. Si vede che i piccoli e medi imprenditori del Veneto e i loro operari si sono accorti che Grillo forse non era proprio il punto di riferimento ideale, un partito che professa la decrescita felice. Evidentemente il messaggio di Grillo non ha funzionato. Per chiudere con Cacciari invece, quindi da quel che ci diceva lei, questo è un elettorato che in realtà è molto facile perdere, insomma, al quale bisogna stare alle calcagna, per così dire. Sì, non c'è dubbio, a differenza che in altri paesi dove può nascere anche la novità, il partito può fermarsi, un partito fuori dagli assi tradizionali, ma rimangono comunque i punti di riferimento fondamentali di una lunga tradizione politica, in crisi certamente, in crisi un po' dappertutto, ma rimangono. Da noi la situazione è totalmente, ripeto, liquida, e quindi tutta dipende tra l'altro dall'effetto del leader, cioè non strutture di partito vere e proprie non esistono pressoché più da nessuna parte, e quindi è il leader, i voti sono voti di Renzi, insomma, diciamocela per come stanno le cose senza tante ipocrisie, i voti sono voti di Renzi come erano i voti di Berlusconi, come erano i voti di Grillo, e quindi come arrivano anche se ne vanno, bisogna saperlo bene. Grazie Massimo Cacciari, grazie al professor Roberto Dalimonte, e noi passiamo dall'altro lato della barricata, per così dire, dal Movimento 5 Stelle, così. Ciao Matteuccio, ciao Serico. Senti, ti ha chiamato Fonzie e Betino e ti ha mandato a fanculo tutti i giorni, no? Sei in adesso, stampa di Palazzo Chigi. Ah, scusa, vabbè, dai, no, ha detto lui le parolacce. Ah, vabbè. Però allora, adesso mi raccomando, non essere vendicativo. Gli vuoi di una parola bella a Beppuccio nostro dopo sta mazzata tra capo e collo che ha preso? Una parolina bella, ma dici per vai, Beppuccio nostro. E vabbè, consentiteci di scherzare, era Enrico Lucci e le Iene, che è stato fatto sedere in prima fila durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, e appunto ha fatto anche una domanda, diciamo, domanda per modo di dire. Luis Orellana, senatore, ex Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E saluto anche Marco Laudonio, che è tra i curatori di un libro che si intitola Alfabeto Grillo, un libro nel quale con, diciamo, la tecnica retorica, per così dire, dell'alfabeto, si cerca di definire il Movimento 5 Stelle, un libro di analisi e non di critica. Ribadisco per gli ascoltatori hanno votato Movimento 5 Stelle, sono iscritti, sono appassionati del Movimento 5 Stelle, che noi abbiamo richiesto un'intervista con qualcuno del Movimento 5 Stelle e ci hanno detto che finché non esce il video di Grillo sostanzialmente non parlano, quindi conteremo di avere qualcuno, insomma, più duro e puro nella giornata di domani. Senatore Orellana, intanto c'è lei, come giudica questo risultato? Ma io giudico il risultato come una forte sconfitta del Movimento 5 Stelle, ha perso quasi 3 milioni di voti ed è però, diciamo, una tendenza che era venuta fuori anche negli appuntamenti successivi a febbraio 2013, sia nelle amministrative della primavera 2013 che nelle regionali, che pochi l'hanno notato, però insomma la Basilicata piuttosto che il Trentino Alto Adige era già andato in netto calo, quindi questi dati che erano segnali che venivano fuori di disaffezione della gente per una proposta che non c'è, è solo mera protesta, che a cui sono aggiunti toni ancora sempre più alti di insulto, di offesa, di iperboli storiche assurde, di minacce vere e proprie ai giornalisti con i processi popolari, eccetera. Tutto questo ha fomentato l'elettorato italiano, che è un elettorato moderato fondamentalmente nella maggior parte, quindi credo che questo sia una sconfitta forte, e che per chi ha promesso di diciamo trarne le conseguenze, ha promesso che o vinceva anche con un solo voto in più rispetto al PD si sarebbe ritirato, penso che adesso per coerenza, che è quello che sostiene sempre di amare, dovrebbe coerentemente trarne le dovute conseguenze, diciamo. Cioè dovrebbe lasciare Grillo, dice lei? Beh, direi proprio di sì, cioè a questo punto è chiaro che dovrebbe ritirare nel periodo.it dal simbolo e lasciare il Movimento 5 Stelle a tutte le persone che hanno contribuito e che stanno lavorando e hanno lavorato tanto in questa campagna elettorale, perché si è visto uno sforzo organizzativo di volontariato impressionante, e che dispiace che questa gente che ci crede, diciamo, in maniera disinteressata resta così deluso, insomma. Ha ragione Nico che ci scrive via sms: attenzione, ne parlate come se il Movimento 5 Stelle fosse l'ultimo partito, non è così, no, certamente, anzi è il secondo partito, però rispetto a quelle che erano le aspettative anche create dalla stessa leadership del Movimento 5 Stelle, le cose non sono andate così bene. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è una puntata un po' speciale, quindi a quest'ora non va propriamente in onda America 24, nel senso che va in onda, ma ci sarà Mario Platero in collegamento con me per capire come stanno reagendo dagli Stati Uniti. Ma prima una domanda per Marco Laudonio, tra i curatori di Alfabeto Grillo. Marco, come hai letto queste aspettative deluse? Ecco, perché sconfitta forse proprio non è, però sicuramente aspettative deluse del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, grazie per l'invito innanzitutto. È una domanda a cui, che paradossalmente mi ero fatto venerdì, all'ultimo giorno di campagna elettorale, in quanto il nostro alfabeto è una serie di voci, mancava la Q ed era il Q di quorum, ovvero sia a quanto arriverà Grillo e qual è l'asticella sopra la quale sentirsi soddisfatto. Ha puntato alto, l'ha fatto anche per mobilitare i suoi, no? È difficile dire in campagna elettorale hashtag vincono loro, ovviamente ha puntato sul vinciamo noi. Ha preso una botta, ma sarà importante capire l'analisi dei flussi elettorali, perché è il secondo partito e ad ora è l'unico partito come secondo con il 2 davanti, quindi è l'unico che ha raccolto il voto di più di 2 italiani su 100, di 2 italiani su 10, in questo momento è il 21,16, ma se andiamo a vedere le singole circoscrizioni elettorali, la debacle al nord, sia centro nord-occidentale che nord-orientale, al centro Italia è poco sopra il 21 e al sud e nelle isole è sopra questo risultato. Quindi probabilmente potrebbe diventare in pianta stabile la seconda forza del paese. Alle europee 5 anni fa Di Pietro al grande spa aveva preso appena l'8%. Allora, grazie Marco Laudonio, mi spiace per il poco spazio, è il momento del mitico Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Oggi in versione un po' particolare, in diretta con me, Mario, buongiorno, eccoci. Buongiorno, buongiorno Simone. Allora, da te vogliamo capire un po' come la stanno prendendo all'altra parte dell'oceano questo voto europeo. Beh, dunque Simone, la cosa che mi ha colpito, devo dire infatti come dicevi, merita oggi la versione particolare perché è stata una giornata molto importante sotto molti punti di vista, anche per l'America, quella di ieri. La cosa curiosa che dà un po' la percezione di come gli Stati Uniti poi si pongono nei confronti del mondo è che la notizia di maggior rilievo dal punto di vista politico oggi sui giornali americani, nelle reti televisive, riguarda l'andamento delle elezioni in Ucraina. Ha colpito molto l'affermazione forte del candidato leader per stabilizzare il paese, ma soprattutto ha colpito quella che viene percepita come un'apparente disponibilità da parte del leader russo Vladimir Putin. Ecco, non dimentichiamo che l'Ucraina è diventato un elemento di crisi per gli Stati Uniti, ha riportato l'idea della guerra fredda e quindi da un punto di vista macropolitico era il voto che interessava di più. L'altra notizia, devo dire, che ha colpito gli Stati Uniti è stato il successo di Renzi in Italia. Ecco, questo dal nostro punto di vista è molto importante, il Wall Street Journal ha dato ampio rilievo al mandato di Renzi e a questo punto però lo stesso quotidiano finanziario americano, anche il New York Times naturalmente ha dato peso a Renzi, ha detto che è stato il leader europeo che si è affermato meglio di qualunque altro, è stato quello che ha avuto un mandato pieno per procedere con le riforme ed è proprio la questione delle riforme, ti dicevo, che il Wall Street Journal sta toccando con una certa intensità. Il mandato c'è stato per le riforme soprattutto. Bisogna andare avanti, questo è un messaggio forte per gli investitori e l'idea è che gli americani che già avevano scommesso su Renzi, già si erano portati sul mercato italiano, a questo punto continueranno. È una corrispondenza con quello che dice lo stesso Renzi. Mario, ti faccio questa domanda e poi ti saluto perché siamo quasi in chiusura. Renzi oggi ha detto in conferenza stampa, è il momento di investire in Italia. Sì, è il momento di investire in Italia, gli americani avevano già cominciato a investire in Italia, però a questo punto direi che l'investitore è pronto, ma vuole vedere delle riforme soprattutto sul fronte della pubblica amministrazione, perché è interessante, si sta dibattendo molto negli Stati Uniti sul ruolo del governo, ci sono dei libri che sono usciti, uno molto interessante di John Micklethwaite, che è il direttore dell'Economist, che parla della quarta rivoluzione. Ecco, il problema è molto sentito in America, la pubblica amministrazione deve esserci, ma deve essere molto efficiente e sarà uno degli elementi più difficili con cui si dovrà confrontare Renzi. Renzi, ma ti ripeto, il voto di ieri è stato considerato un po' come una cambiale in bianco per il nostro Presidente del Consiglio. In 30 secondi, Mario, invece la lettura del resto del voto europeo, questa avanzata per esempio del Fronte Nazionale, ci sono già delle letture interessanti? Ecco, questa è la cosa che ha preoccupato di più gli Stati Uniti, devo dire. Gli Stati Uniti sono molto preoccupati per la performance di movimenti nazionalisti, razzisti, per l'antisemitismo, il movimento della Le Pen in Francia, il partito della Le Pen in Francia, in Ungheria, in Danimarca, la situazione ha colpito molto. Per questo ti ripeto, l'Italia oggi diventa un po' un punto di riferimento potenzialmente per gli Stati Uniti da un punto di vista di maturità politica. C'è un voto per l'Europa, c'è un voto di apertura, c'è la conferma della credibilità per un giovane Presidente del Consiglio. Nel resto di Europa si vede confusione e soprattutto si pensa, e questo è un altro elemento se vuoi ottimista, che il voto contro l'Europa in alcuni paesi sia un voto anche contro l'austerità, contro la politica imposta dalla Germania, quindi di nuovo gli investitori reagiscono positivamente, Mario, perché pensano che le cose cambieranno. Allora Mario, io ti devo salutare e ti ringrazio e vai con la sigla di America 24. America 24. Grazie a Filippo Aureggi, Anita Panizza, grazie a tutta la redazione di Radio 24. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.